Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Negli scorsi anni sono stati fatti passi avanti sul piano dell'informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. Vari pezzi di amministrazione pubblica si sono informatizzati, più che altro i grandi enti, la motorizzazione con la patente elettronica, l'agenzia delle entrate, le poste. Le code in molti uffici sono passate da estenuanti a mediamente accettabili e in alcuni casi è persino possibile esprimere un giudizio quali utenti sull'operato dell'amministrazione pubblica. Tuttavia ci stiamo riempiendo di tessere elettroniche, codici, password, numeri cliente e chi più ne ha più ne metta. E nonostante questo ci troviamo continuamente a compilare moduli inserendo dati che abbiamo già inserito altre 10.000 volte, spesso a favore dello stesso ente. Insomma, la sensazione è che si potrebbe fare molto ma molto di più con le attuali tecnologie informatiche, e sappiamo quanto questo sia importante, non solo nella logica della Smart City, che è quello di cui noi qui ci occupiamo, ma in generale per l'efficienza della macchina burocratica nel suo complesso, che sappiamo essere a sua volta un ingrediente fondamentale della competitività di quello che viene chiamato il sistema paese. Di tutto questo parliamo con Stefano De Capitani, manager con una forte esperienza proprio nel settore dell'information technology applicata alla pubblica amministrazione, ex vicepresidente di IBM e attualmente direttore generale di CSI Piemonte, consorzio per il sistema informativo al quale aderiscono 91 diversi enti locali piemontesi. Buonasera De Capitani. Buonasera. Dunque, la sensazione appunto è questa, lei ne ha parlato recentemente, che potremmo insomma avere una sola smart card o una chiavetta USB, insomma una tessera del cittadino su cui convergono tutte le informazioni, tutti felici, addio montagne di carta, però nulla di questo sembra essere all'orizzonte. Perché, De Capitani? Ma intanto direi che non è un fatto tecnologico, cioè non esistono in questo momento limiti di tipo tecnologico che impediscono che questo accada. Il problema è sostanzialmente di tipo organizzativo. Come lei giustamente diceva poco fa, esistono i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, delle poste e via dicendo, ma sono appunto per lo più sistemi informativi separati l'uno dall'altro, quindi quello che manca è la cosiddetta interoperabilità e quindi anche la circolarità delle informazioni condivise tra la pubblica amministrazione. Cosa impedisce di realizzare questa interoperabilità? Ma anche qui nulla, non c'è nessun impedimento di tipo tecnologico, è un fatto organizzativo e di volontà, diciamo, da parte degli enti. Fino ad ora non c'è stata un'azione centrale, diciamo un soggetto centrale che avesse questo compito e che avesse anche le leve per portare poi i singoli enti a lavorare realmente assieme. E quindi si assiste a ottime soluzioni, ottimi progressi che migliorano via via l'accesso da parte delle persone ai servizi pubblici, però un po' a compartimenti stagni, si viaggia un po' a filos verticali. Concretamente di che cosa si tratterebbe? Bisognerebbe tradurre da un linguaggio informatico ad un altro tutta una serie di applicativi che magari sono stati sviluppati in varie amministrazioni pubbliche, è questo il punto? Sì, ma non è un problema di software o di applicazioni, è un problema di dati. Oggi sì. Diciamo l'accento principale va messo sulle basi dati, sulle banche dati. Queste banche dati non sono collegate tra loro, okay. C'è una regia che le collega tra loro e consente quindi al cittadino di navigare tra le informazioni dei vari enti, e quindi questo porta anche a quello che diceva lei, la necessità spesso di fornire la stessa informazione più volte alla pubblica amministrazione. Lei addirittura denunciava il fatto che, come dire, la procedura informatica messa in piedi a un certo punto diventa nuovamente cartacea. Sì, questo è un po' una mia fissazione. Si è lavorato molto negli anni passati sul cosiddetto front office e quindi si è fatto ad esempio un ottimo lavoro sulla diffusione della casella di posta elettronica certificata. Il precedente governo si è impegnato molto. Il problema è che quando questa casella di posta certificata arriva all'ente, l'ente al suo interno, generalmente parlando, innesca un processo ancora tradizionale, analogico, esatto, cartaceo. Allora, quello che oggi è inserito anche nelle proposte per l'agenda digitale che si sta sviluppando a livello governativo è il cosiddetto switch off, quindi il passaggio da analogico o cartaceo a digitale. I servizi pubblici dovranno essere non più manuali cartacei ma informatizzati, ma non basta naturalmente che sia informatizzato solo il front office con l'utente, deve essere informatizzato tutto ciò che sta dietro, negli uffici della pubblica amministrazione. Quindi bisogna un po' ridisegnare le procedure della pubblica amministrazione. discussione attorno a un modo di far circolare le informazioni che è diverso e che è quello che ci è stato consegnato, diciamo così, dall'informatica. Senta, mi pare di capire che se la situazione è in evoluzione, anche con tutti i problemi che abbiamo detto per quanto riguarda, chiamiamoli così, i grandi carrozzoni pubblici, se scendiamo a livello di enti, di amministrazioni locali, la situazione purtroppo non è migliore, è semmai un po' peggiore. Ma di fatto anche a livello locale c'è un po' lo stesso tipo di problema. Ogni pubblica amministrazione locale, ogni regione, ogni comune, ogni provincia persegue i propri obiettivi di informatizzazione. È solo che lì la polverizzazione è ancora più alta di quella che... Quindi insomma, sono migliaia di comuni, se ognuno si fa un database che non comunica con gli altri. Guardi, l'esempio concreto è il forum PA che si è tenuto settimana scorsa a Roma, grande manifestazione in cui sono state messe in mostra le migliori realizzazioni da parte del pubblico in generale, ma girando tra gli stand una riflessione era che le varie regioni, le varie città hanno realizzato tutti più o meno le stesse cose. N volte, e questo è un po' il problema. Senta De Capitani, siccome lei è direttore generale di una di queste società che come dire, scrivono anche questi pacchetti informatici per la pubblica amministrazione, e voi ne avete fatte come CSI Piemonte veramente tante, ci risentiamo domani, se lei è d'accordo ce ne racconta qualcuna. Molto volentieri, la ringrazio. A domani allora. Arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani sera, torniamo a parlare di informatizzazione della pubblica amministrazione. Buona serata.